sono 38 anni, facevo perché mi sono spaventata per quello che mi è capitato, allora ho interrotto tutto. Niente, facevo degli allenamenti abbastanza intensi, secondo me, per le mie capacità, perché andavo prima a correre 40 minuti, tre quarti d'ora, poi mi tuffavo in piscina e nuotavo per un'ora, sempre cercando di fare del mio meglio. Chissà che fisico, Valentina, verrebbe da dire, no? Due volte alla settimana. Però, ecco, e poi cosa è successo? Cos'è che l'ha fatta spaventare? Ho cominciato a sentirmi un po' male, non debole, però male. E ho scoperto di essere diventata anemica, molto anemica. Molto anemica. E allora si è spaventata, ha detto mollo tutto. Non sto facendo più niente. Dottor Confalonieri. L'anemia dello sportivo. Beh, l'anemia dello sportivo è un problema perché sappiamo che i globuli rossi trasportano l'ossigeno, l'ossigeno serve per produrre l'energia necessaria al lavoro muscolare, quindi meno ossigeno, meno energia, minor rendimento in allenamento e fatica. E ovviamente con lo sport c'è anche un iperconsumo di ferro e quindi una riduzione, si tende a peggiorare il quadro dell'anemia, però non è assolutamente un motivo per fermarsi, quindi bisogna capire perché si è sviluppata questa anemia, correggerla. L'anemia si corregge abbastanza bene con una terapia di tipo farmacologico, e esaurita la fase acuta in cui abbiniamo la terapia al riposo, possiamo riprendere ovviamente. In questo caso la gradualità che mi è tanto cara è assolutamente importante. Oggi non l'ha ancora detto, è assolutamente importante riprendere gradualmente, magari abbinando non due attività di tipo aerobico come la corsa e il nuoto, ma un'attività di tipo aerobico con un'attività di forza, e quindi un'attività di palestra, un'attività di allungamento, un'attività più dolce che consenta di fare comunque molto sport, ma di richiedere un pochettino meno ai nostri globuli rossi.